I think we're on the road to Greece, or to Spain, or to Italy, or to California. Mitt Romney, ecco, Mitt Romney secondo me sta cercando di tornare all'attacco, rispolvera un po' i suoi vecchi cavalli di battaglia, dico vecchi perché li aveva usati alcuni mesi fa. In particolare avete sentito in questa dichiarazione che ha fatto ieri in un'intervista, attacca di nuovo l'Europa, l'Italia, la Spagna, la Grecia e, bontà sua, ha aggiunto anche la California. Dice: noi negli Stati Uniti, se eleggeremo di nuovo Barack Obama, finiremo come questi paesi, cioè dei paesi che si indebitano senza fine pur di mantenere certe promesse sociali che secondo lui ormai sono senza tempo. Ora, non che il ragionamento di Romney sia del tutto campato per aria, del resto noi stessi ce ne stiamo rendendo conto e stiamo correggendo alcune cose. Però, come dire, pensare che il presidente Obama possa portare gli Stati Uniti lungo una strada che li porterà verso un declino inesorabile, forse in questo momento in cui l'economia peraltro si sta piano piano riprendendo, può essere eccessivo. Perché dunque Romney lancia questo attacco? Beh, secondo me perché si è trovato in difficoltà per un errore strategico, perché Mitt Romney a un certo punto, nel momento in cui dopo il primo dibattito, dopo il pari del secondo dibattito, si è accorto che stava salendo nei sondaggi, che stava migliorando la sua posizione in alcuni stati chiave, ha concluso che forse doveva apparire più centrista, più presidenziale, e così ha smesso all'improvviso di attaccare briga con Barack Obama. Se in un primo momento questa strategia di Romney ha funzionato, beh, poi alla fine gli ha creato qualche difficoltà, perché era come se lui desse per scontato un risultato quando il risultato ancora non c'era. E dunque in questi ultimi giorni che mancano, dopo che Barack Obama è riuscito a migliorare le posizioni nei sondaggi nel pre-Sandy, poi con Sandy ha avuto questo momento di popolarità, di notorietà, ha avuto un appoggio indiretto e strano del governatore del New Jersey, Chris Christie, un repubblicano, Doc, ecco, a questo punto a Romney non resta che tornare all'attacco. Secondo me doveva inventarsi qualcosa di nuovo, perché insomma di Europa che è socialista e del fatto che ci sia questo rischio per l'America ne aveva già parlato a suo tempo. Vedremo, gli mancano 4 giorni,